speciale, quando il clima è più cordiale e sorridere è normale, una festa universale, la notte di Natale. Posto da commensale, più che una cena un baccanale, rischio gastrointestinale, un banchetto eccezionale, un presente essenziale, se mi voglio presentare, un prodotto artigianale preso al centro commerciale. Per le scale, giù nell'atrio condominiale, porto l'auto per il viale e giù fino all'autostradale, la prendo larga tanto uguale, c'è traffico ovunque, è Natale, poi l'accorcio in diagonale, sarà una notte speciale. Conviviale col prodotto artigianale, una sciarpa orientale come dono di Natale. Si augura le antipasti col caviale, stuzzichini di maiale, pane, uova, salmone reale, di ogni cosa sotto sale, senza un ordine razionale, pasta e brodo vegetale, cossi, lonza e guanziale, spezzatino di cinghiale, capitone in salsa speciale, sempre pieno il boccale, frutta, frutta tropicale, un amaro ficinale, e la grappa del casale, altro brindisi augurale, ormai peso un quintale. Dopo la cena trionfale, scendo tronfio per le scale, salgo in auto, prendo il viale, ma mi ferma la stradale, la divisa è imparziale, qui si cade nel penale, un processo giudiziale e controlli all'ospedale, ora il pezzo lampeggianti per il viale, nella nebbia invernale, me l'ha messo via rettale, per la festa più speciale, quando il clima è più cordiale, e sorridere fa male, se si cade nel penale, nella notte di Natale. Natale. Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale! Natale,